Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata come sempre venerdì in cui arriverà anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi di denaro pubblico a qualunque livello, puntata in cui parleremo chiaramente anche del tema che stiamo trattando a giorni, del resto era immaginabile, alla luce anche delle prime valutazioni così informali della nostra legge di stabilità, immaginabile, l'abbiamo spiegato in tutti i modi anche ieri, l'altro ieri, che con Bruxelles non sarebbe stata una passeggiata in discesa, però da questo punto di vista oggi Padoan rassicura, non c'è nessun scetticismo a Bruxelles sulla manovra, c'è dialogo e una valutazione puntuale delle misure. Anche in Germania c'è fiducia sull'Italia, dice appunto il ministro dell'economia Padoan, a una conferenza tra l'altro organizzata dalla Bundesbank. Da questo punto di vista faccio notare che invece il premier Matteo Renzi va avanti nella sua, diciamo, logica e nel suo atteggiamento di mantenere, non dico lo scontro, ma i temi alti. Perché lo dico? Perché dopo aver detto le uniche infrazioni dovrebbero essere date ai paesi che non accolgono i migranti, oggi ha detto in conferenza stampa da Bruxelles: credo che il bilancio della Germania abbia molti problemi, a cominciare da un surplus commerciale che non rispetta le regole europee, e spero che i nostri amici possano provvedere al riequilibrio. Come dire, attenzione, se andate a vedere chi non rispetta le regole, guardate al surplus commerciale della Germania. Dal punto di vista formale è corretto, lo dico perché il patto di stabilità, come abbiamo spiegato molte volte, prevede che tu non possa avere un deficit eccessivo, cioè sopra il 3% partono i richiami, le sanzioni, e devi portarlo, devi ridurlo di anno in anno, ma non puoi neanche avere un avanzo, in questo caso un avanzo commerciale, troppo alto, cioè un paese non può essere troppo ricco e un altro troppo indebitato. Cosa si chiede alla Germania? Se hai un surplus commerciale così alto, spendi un po' di più. Questa è una logica, ma ripeto, non lo chiede l'Italia, l'Europa accetta un surplus del 6% come tetto massimo commerciale, la Germania è arrivata al 9% quest'anno, però ripeto, se fossimo tutti dei paesi singoli, uno potrebbe dire e chi se ne frega, ma quando stai nell'Europa le regole valgono sia sul deficit che sull'opposto del deficit, che è il surplus. Ancora, dicevo, Renzi, la sostanza della manovra non cambia, non chiediamo flessibilità, ma delle circostanze eccezionali, e quindi terremoto e immigrazione, che giustificano una spesa più alta. E poi ha ricordato Renzi che il nostro deficit è il più basso da un decennio a questa parte. Vorrei però subito partire da una notizia che è a cavallo tra economia e anche politica estera. Guardate che adesso lei ricomincia a leccare Renzi. No, sto ricordando il patto di stabilità, che poi lo dica Renzi un altro a me non interessa, però abbia un po' di pazienza prima di attaccarmi, perché c'è ancora la classifica. Abbiamo spazio, invece vorrei subito partire con i 100 secondi che abbiamo modificato al volo, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, perché come avete saputo dal nostro GR24 è in corso, e comunque c'è stato un enorme attacco, un cyber attacco da parte di hacker che ha colpito il traffico di centinaia di siti web, soprattutto per gli utenti internet della costa est degli Stati Uniti. Si è parlato anche dell'attacco alla porta aerea di Ronald Reagan nella parte, appunto, come hacker. Le polemiche vanno avanti da settimane, sia sugli hacker cinesi sia sugli hacker russi, addirittura accusati di intervenire nella campagna elettorale americana. Comunque, utenti in difficoltà, sia quelli di Twitter, del Financial Times, di Spotify, di Reddit, di eBay, del New York Times. Su questo, sulle guerre cibernetiche, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Che la cyber war sia la nuova modalità di gestione delle fasi più dure del confronto internazionale ormai è conclamato. L'ultimo episodio è quello che riguarda alcuni hacker cinesi che avrebbero attaccato la portaerea americana Ronald Reagan per carpirne i segreti tecnologici, operativi e militari. È una portaerea nucleare, quindi una nave della massima rilevanza strategica. Gli hacker cinesi, così come ha ricostruito il Financial Times, avrebbero attaccato i computer dei funzionari di governo americani che si trovavano a bordo, inondandoli di mail infette. Cioè, questo è accaduto l'11 luglio scorso, il giorno prima della controversa sentenza del Tribunale dell'Aia sul Mar Cinese Meridionale. La portaerea in quei giorni era di pattuglia nella zona contesa. La lite opponeva Manila a Pechino sulle isole Spratly nel mar della Cina meridionale e proprio ieri, non è un caso, il presidente filippino Rodrigo Duterte ha annunciato uno strappo storico con gli Stati Uniti, una presa di distanza che lo ha portato a un avvicinamento invece a Pechino. Che ci sia poi lo zampino degli hacker russi dietro la diffusione delle mail più imbarazzanti di Hillary Clinton, anche questo è un dato assodato. Quanto la sicurezza quindi dipende dal controllo delle tecnologie digitali è evidente. Forse è meno evidente che anche la nuova manifattura sta diventando tutta legata alla digitalizzazione. Il fatto che Google e Facebook abbiano finanziato la costruzione di un cavo lungo 13.000 km tra Los Angeles e Hong Kong ci aiuta a capire davvero quale stia diventando la dimensione di questo nuovo mondo con cui dobbiamo confrontarci. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo avanti con le altre notizie, partiamo anche dalla borsa invariata oggi, ma resta sempre il tema del Monte dei Paschi di Siena, oggi il rialzo del 12,74%, Ubibanca più 3%, Telecom Italia più 2,5%, ST Microelectronics l'1,30 come Moncler, l'1,20 lo guadagna Yux Net-a-Porter, l'1% Buzzi Unicem. Sì, faccio notare che Monte dei Paschi, da quando è stato presentato il piano industriale lunedì, ha guadagnato circa il 40% in 4 giorni. Oggi sospeso anche per eccesso di rialzo, è stato riammesso, guadagnava più del 15%. Tra i titoli invece negativi, Luxottica meno 1,70, A2A meno 1,40, Milano meno 1,20, come ricordati meno 1,1, Brembo, Eterna meno 1%, Snam, Euro. Dopo la BCE di ieri continua anche la sua fase, diciamo, discendente, è a quota 1,0869 nei confronti del dollaro, si sta avvicinando alla parità. Vedo molti messaggi sulla manovra di stabilità. Guardate la critica all'incertezza di alcune coperture, è tutta la settimana che la facciamo, in particolar modo a quelli che dovrebbero essere gli introiti di carattere fiscale, quindi rottamazione delle cartelle Equitalia, cosa porterà in più, voluntary disclosure, cosa porterà in più, e altre voci che valgono 4 miliardi, ne parlavamo anche ieri, per cui i dubbi su quella parte della copertura per noi restano. Andiamo avanti, qualcuno dice che noi da spendaccioni bacchettiamo i primi della classe tedeschi, ma voglio dire, uno può essere anche, non penso che noi siamo gli ultimi della classe, però anche lo studente meno bravo o che sta facendo i compiti a casa, che deve rimettersi in riga come siamo sicuramente noi, può permettersi di fare una critica allo studente più bravo se questo, diciamo, non si comporta come dovrebbe. Non è che siccome noi siamo più in difficoltà dobbiamo fare più riforme, risistemare i conti, dobbiamo stare zitti sempre. Comunque io non sono d'accordo su questo, anche perché i tedeschi fanno molto italiani quando si tratta di vendere i vantaggi, di non vedere i vantaggi, di mettere in evidenza solo gli svantaggi. Assomigliano a quel detto tedesco chiagni e qualcos'altro. Penso a tutte le polemiche contro Mario Draghi quando la Germania ha avuto dei benefici immensi dai tassi così bassi sul suo debito, Ho capito, poi le banche tedesche, come le altre banche dell'area euro, hanno più difficoltà a fare margine perché i tassi sono bassissimi, capito? Ho detto piano Monte dei Paschi, in realtà intendevo il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di lunedì sera, ha ragione l'ascoltatore che lo fa notare al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp e per i vostri SMS. Allora, rapidamente su altre notizie, oggi da Bruxelles è arrivata anche un'apertura, un cauto ottimismo sull'accordo tra Unione Europea e Canada, importantissimo. Il Canada è il nostro mercato importante, lo ricordiamo ogni volta. Non è possibile che tutti i paesi europei siano d'accordo, il Canada sia d'accordo e la comunità vallona del Belgio, per motivi diciamo, culturali, storici, non me ne frega nulla, blocchi un accordo che riguarda tutti gli abitanti dell'Unione Europea. Juncker ha detto che è fiducioso che l'accordo si chiuderà e poi anche Angela Merkel ha detto di essere ottimista sull'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada e anche su quello tra Unione Europea e Ucraina e diciamo da questo punto di vista messo in pericolo dal referendum negativo in Olanda, ma si cerca di arrivare a un accordo anche su quello. Allora, 349-238-6666 per i vostri SMS. Prima di arrivare alla classifica oggi ci colleghiamo e andiamo a Capri, dove come sempre ci sono anche gli studi di Radio 24 per il convegno annuale che ieri ci ha anticipato il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gai. Il 31esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria è intitolato Forti progetti, non poteri. Arriveranno verso 18.30 sia i leader sindacali Camusso, Furlane, Barbagallo, quindi CGL, CISL e UIL, che il ministro al lavoro Giuliano Poletti e diciamo il plauso dei giovani di Confindustria alla manovra è netto, non c'è bisogno di girarci attorno. Ascoltiamo questo passaggio del presidente Marco Gai nel suo intervento di apertura proprio sulla legge di bilancio. Siamo in piena legge di bilancio, quella che fino allo scorso anno si chiamava legge di stabilità. Oggi, bisogna dirlo, ha tutte le premesse per chiamarsi legge di sviluppo. Parlo di premesse perché ancora non abbiamo un testo consolidato da leggere. Ancora non sappiamo la risposta di Bruxelles, se darà via libera o meno. Ancora non sappiamo se il Parlamento verrà dato l'assalto alla diligenza per fare degli scambi che non servono sicuramente al Paese. Ma premesse a parte, a chi dice che in questa manovra non c'è un piano chiaro, noi rispondiamo che il piano lo vediamo e come. Per noi si chiama innovazione, perché aiuta le imprese a fare un salto in avanti di 10 anni, grazie a strumenti concreti per investire in nuovi macchinari, digitalizzazione e soprattutto nelle persone. Oggi innovare e fare industria, investire e fare innovazione. Per questo non possiamo che essere soddisfatti di vedere finalmente un disegno di politica industriale ampio, organico, che sicuramente contribuirà a cambiare il Paese. Allora, e a Capri a seguire i lavori che appunto vedranno anche intervenire il ministro Stefania Giannini, oltre che il ministro Poletti, il ministro Mariana Boschi, il presidente dell'INPS Tito Boeri, i leader sindacali Camusso, Furlan, Barbagallo, appunto, sono sia la nostra Teresa Trillo che la nostra Anna Marino. Anna in collegamento dagli studi di Radio 24, buonasera. Buonasera a te Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Sentivamo, sì. Fammi fare la domanda. Allora, sentivamo quello che si potrebbe chiamare endorsement, comunque l'appoggio del Presidente dei Giovani di Confindustria alla manovra di stabilità, piace o non piace, noi alcuni rilievi li abbiamo fatti, quindi come vedete le opinioni si ascoltano in questo programma e abbiamo ascoltato anche quelle dei sindacati, ci mancherebbe, però Gai si è occupato anche della crescita nel 2017, o lacrime o c'è crescita o saranno lacrime e sangue, capito bene? Certo, è partita appunto la giornata, la prima giornata di lavori con la legge di bilancio e i modelli contrattuali. E Gai, come dicevi, ha parlato proprio del suo sì alla manovra e lo ha motivato. E inoltre, proprio sul fronte dei conti pubblici, Gai ha parlato di miraggio a proposito della spending review e ha avvertito e ha messo in guardia però su misure una tantum contenute sulla manovra. Infatti sentiamo questo passaggio del discorso di Gai. Anche perché se non cresciamo nel 2017 rischiamo di sforare ogni limite di deficit o di dover fare a breve una manovra correttiva, lacrime e sangue. Se infatti sul piano delle spese c'è una direzione chiara, sul lato delle entrate no. Dal momento che le coperture sono per lo più basate su misure una tantum, come la rottamazione delle cartelle esattoriali o una nuova voluntary disclosure. E quindi sì a una finanziaria sullo sviluppo e a una politica industriale. Il riferimento di Marco Gai era anche all'industria 4.0, però attenzione alle entrate. Devo dire che modestamente non ci siamo sentiti prima, ma è talmente palese che la cosa più debole della manovra sia il fronte delle entrate fiscali, che l'abbiamo detto anche noi con tutta la nostra modestia e lo ribadiscono adesso anche i giovani imprenditori. Dicevi che si parlerà anche di contratti, da lì la presenza anche dei tre leader sindacali, oltre che del ministro del lavoro Poletti. Certo, oggi è anche la giornata dedicata ai temi del lavoro e ai contratti, per questo Gai ha richiamato i sindacati sul tema di un nuovo modello contrattuale e ovviamente sulla manovra e sulle prospettive dei rinnovi contrattuali aperti. Ha replicato poco fa la leader della CGIL Susanna Camusso al microfono di Teresa Trillò, sentiamo. Gai dice si rischia una manovra lacrime e sangue se nel 2017 non si cresce, d'accordo? Io è indubbio che per come l'abbiamo vista, poi io penso che bisogna aspettare davvero il testo, perché stiamo tutti discutendo delle slide in realtà. Per come è una manovra che ha più distribuzione che non investimento, e quindi il rischio che abbia poi degli effetti di rimbalzo sul terreno delle coperture è indubbia. Se le coperture sono affidate alla rottamazione di Equitalia, ho grandi preoccupazioni. Per questo noi continuiamo a dire ci vuole un progetto, ci vogliono degli investimenti. Molti sono i contratti da chiudere che ci sono sul tavolo, è fiduciosa? No, sono molto preoccupata in questa stagione, vedo molti tavoli che si stanno bloccando, dai tessili alle assicurazioni, e penso che ci sia un nodo che poi è il nodo generale del tema redistribuzione della ricchezza. C'è un'idea, una convinzione che i salari possano diminuire, e questo non solo è un problema per il paese e per la sua crescita, ma poi è un drammatico problema per i lavoratori e le loro condizioni. Anna, domani sarà la volta di altri incontri, i temi al di là della legge di stabilità e rinnovi contrattuali, o meglio nuovi modelli contrattuali, cosa riguarderanno? Certo, domani sarà la volta di crescita, di parlare di crescita con la presenza di Carlo Calenda, il ministro dello sviluppo economico, e di referendum con Maria Elena Boschi, e domani appunto ci saranno temi ovviamente oltre il lavoro e la ricerca che riguarderanno soprattutto la possibilità di dare una prospettiva di crescita al paese, come richiamava Marco Gai, strumenti e idee. Ed è per questo che appunto Gai oggi ha parlato di non volere una decrescita che Gai chiama infelice, ma cercare di creare appunto le premesse tutti insieme nel paese, non per operazioni di maquillage. Ma devo dire che insomma l'appello sul 2017, noi continuiamo a dirlo nella nostra modestia, attenzione, perché anche ammesso e non concesso che l'Europa ci faccia passare la manovra di stabilità, di bilancio, la legge finanziaria, così come abbiamo presentato, in realtà molti ritengono che qualche modifica dovremmo farla, soprattutto sulla parte una tantum e sulla parte, per esempio, spending review, in cui si tratta di auspici. Però attenzione che poi nel 2017, per fare la manovra del 2018, non possiamo più chiedere niente, sperando ovviamente di non avere terremoti o di dover gestire la crisi dei migranti. Grazie intanto alla nostra Anna Marino. Io vorrei adesso andare sul meteo. Oggi la puntata è un po' rapida perché ho tanti temi, e poi partire con lo scandalo, con la classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione e anche lo scandalo dei vitalizi. Ogni tanto diciamo che questo è un paese molto lungo, si dice che l'Italia è troppo lunga, dalle Alpi a Lampedusa. In realtà delle volte è un paese cortissimo, in cui tu riesci a mettere assieme come d'incanto la provincia di Bolzano con la regione Campania. 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, la classifica, si conferma che c'è anche l'uccellaccio Sapelli oggi per parlare di elezioni americane, ma soprattutto di confronto Roma, Bruxelles, la Germania sulla Russia, ma Roma, Bruxelles e anche l'apertura, diciamo, del confronto o dello scontro per alcuni di Renzi anche con altri paesi dell'Unione Europea, oltre che come entrerà la nostra legge finanziaria. Comunque, per quello che se ne sa, andiamo alla nostra poco invidiabile classifica. Partiamo dal quinto posto. Dal quinto posto, come spesso facciamo, è un appello. La settimana scorsa abbiamo premiato invece un caso virtuoso. Qui vogliamo mettere le mani avanti, cioè vorremmo evitare che finisse la città di Matera nella nostra classifica. Perché lo dico? È di Matera la regista? No? Perché ci guarda. Matera è una città bellissima, ma soprattutto, due anni fa, lo ricorderete, era il 17 ottobre del 2014, ci fu la grande festa di piazza, in piazza San Giovanni, per la designazione di capitale europea della cultura nel 2019. Una città che ha avuto un passato difficilissimo, vergogna nazionale, definita da De Gasperi per i sassi in cui abitavano ancora molti, molti contadini con famiglie, animali, tutti di visitare Matera, perché è una città che sta rinascendo. Però sta rinascendo grazie agli investimenti dei privati, che vogliono dire sì gli alberghi, sì bed and breakfast, ma anche ristoranti, esercizi commerciali. C'è molto da fare. Però insomma, quello che è incredibile è che dopo due anni, nel frattempo i turisti si stanno muovendo. Allora c'è da finire sta cavolo di strada dall'aeroporto di Bari a Matera, sono 50 chilometri, tutti pianeggianti, non c'è una collina manco fatta da una talpa, i lavori sono sempre in corso. È importante, i turisti, se devono arrivare nella capitale della cultura, anche prima ci arrivano o ci arrivano dopo, forse hanno bisogno di un collegamento un po' più decente. Ma vorremmo capire cosa sta facendo il comune di Matera. Perché lo dico? Perché il budget è stato approvato all'85%, quindi è l'unica capitale che a tre anni dall'evento ha il budget approvato all'85%. Adesso bisogna passare alla qualità e la quantità dei progetti, e ce n'è da fare. Faccio notare che al di là dei sassi, della bellezza, della conformazione della città antica, ci sono anche delle cose da mettere a posto. Ma vi sembra normale che nella capitale, quella che sarà capitale della cultura mondiale, capitale europea della cultura nel 2019, scusatemi, manchi un museo vero e proprio, il castello tramontano, che è una fortezza cinquecentesca, è inaccessibile da sempre. Io non so da quanti anni, non lo sanno neanche gli abitanti di Matera da quanti anni sia oggetto di restauro. Non c'è neanche un cartello a indicare qualche dettaglio sui lavori, saranno finiti nel 2018, ma che... Il colle su cui è edificato questo castello, che ha una storia anche singolare, insomma non voglio annoiare tutti, è nel frattempo un parco urbano dominato da parcheggi e rifiuti, non è il massimo della vita. Poi c'è Giuliana. Chi è Giuliana? No, Giuliana è il fossile della balenottera più grande al mondo, antico 1 milione di anni, che testimonia un passato in cui Matera ovviamente c'era il mare. I frammenti del fossile scoperto nella diga di San Giuliano nel 2006 sono stati tutti recuperati e sono praticamente un tesoro, ma in scatola. Perché? Perché sono conservati in alcune decine di casse di legno all'interno del Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola. Nella stessa via Ridola, nel cuore di Matera, c'è una libreria dell'Arco costretta a traslocare altrove, ma soprattutto la Biblioteca Provinciale Stigliani. Io mi chiedo, ma come fa la biblioteca della capitale della cultura del 2019 a non poter sopravvivere? Non ha fondi, è aperta, pensate un po', 4 giorni e mezzo a settimana e non può più acquistare libri ed è senza personale. Ma voglio dire, adesso io capisco, il sindaco Raffaello De Ruggeri dice che il suo progetto è fare del castello una grande area ludica per l'infanzia. Chiudo gli occhi allora e vedo i bambini, i ragazzi giocare dentro il castello, come solo in un luogo così magico può accadere. Sì, chiude gli occhi, poi li riapre il sindaco, penso che vorremmo vederli poi questi bambini. I sogni vanno benissimo, i sogni sono desideri, però poi devono anche essere realtà. Per favore, ci segnalano da più parti abitanti di Matera, adesso non voglio diventare una specie di casella postale, che i lavori sono a rilento, non fatevi trovare impreparati e dateci qualche tempo. Questo è un auspicio. Andiamo invece sulle certezze, perché al quarto posto, qua iniziamo invece con i dolori, perché al quarto posto devo parlare di Agrigento e dare come sempre nomi e cognomi. Allora, uno si chiama Antonio Cicero e l'altro si chiama, dov'è? Non sai che sta classifica ancora un po', vabbè. Allora, uno è Antonio Cicero, cosa fa? E l'altro si chiama Francesco Picone e anche Alfonso Mirotta. Che cosa è successo? Sono sostanzialmente quattro ex consiglieri comunali, se non becco il quarto nome impazzisco, eccolo qua, Alfonso Vassallo, quindi Alfonso Vassallo, Alfonso Mirotta, Francesco Picone e Antonino Cicero, accusati tutti e quattro di falsificazioni, di false testimonianze e falsificazioni per ottenere rimborsi e gettoni di presenza nel comune di Agrigento. Si chiama Gettonopoli Agrigentina. Hanno sequestrato 50.000 euro. Inchiesta per truffa e falso. La cosa interessante sono i metodi ideati, perché se Picone e Mirotta sostanzialmente producevano atti di delega con sottoscrizione contraffatta apparentemente riconducibile ad altro consigliere comunale, inducevano in errore il segretario del presidente della commissione interessati, i quali attestavano falsamente la sua legittimazione a partecipare in qualità di delegato. Insomma, cavolo vuol dire. I due falsificavano le deleghe per sostituire alcuni colleghi nelle riunioni nelle rispettive commissioni. In questo modo Picone aveva ottenuto migliaia di euro di gettoni di presenza, Mirotta pure. Cosa interessante è Antonino Cicero. 30.500 euro gli vengono contestati, eletti in consiglio con il Grande Sud. Cosa fa dopo che diventa consigliere comunale? Cioè, cosa fa uno quando diventa consigliere comunale di una città? Tende a vivere in quella città. No, perché Cicero è un genio. Come diventa consigliere comunale? Trasferisce la residenza a Palermo. Ma scusami, guarda che è stato eletto a Agrigento, no? A Palermo. Chi conosce la Sicilia sa che Agrigento e Palermo non sono dietro l'angolo. Ovvio il motivo, e su cui è indagato la Guardia di Finanza, perché tu hai il diritto al rimborso per la... se abiti in una città diversa da quella in cui eserciti la funzione di consigliere comunale. Peccato che la Guardia di Finanza sia andata a cercare e non ha trovato nessun contratto d'affitto a Palermo, nessuna fornitura elettrica o idrica. La famiglia continua a vivere ad Agrigento. Hanno anche localizzato la cella del suo cellulare, sempre agganciata ad Agrigento, al momento di effettuazione della prima e dell'ultima chiamata per ogni singola giornata. È risultato che nella maggior parte dei casi in cui Cicero ha avanzato richieste di rimborso per spese di viaggio, in realtà ha pernottato da Agrigento. Allora delle due l'una: o lui praticamente, vediamo se riesco a capire, si svegliava all'alba da Palermo, andava da Agrigento, faceva la prima telefonata da Agrigento, stava da Agrigento, poi non chiamava più e tornava l'ultima, faceva l'ultima chiamata ad Agrigento e poi tornava a dormire a Palermo ogni volta. Un po' complicata come vita, ho difficoltà anche a descriverla. Oppure è uno che ha fregato 30.500 euro solo di rimborsi. Ma poi la famiglia sta lì, ma che modo è? Ma si lascia la famiglia così ad Agrigento, ti trasferisce a Palermo? Ma dove abitava Cicero? Non c'è un contratto, una fornitura elettrica, idrica, chi la ospitava? E poi senza mai poter telefonare, perché se telefoni sempre... Vabbè, poi c'è la storia più curiosa, quella di Alfonso Vassallo. Beh, lui è un uomo fortunato. Poi uno dice che nella vita gli stage non servono. Pensate che lui fa uno stage alla Confartigianato di Agrigento. Stage che dura pochissimo, invece che essere semestrale, lo stage viene interrotto per un'incomprensione. Viene messo a verbale. Poi dice: ah, se uno interrompe lo stage, che gli succede nella vita? Beh, a lui gli succede che viene nominato poco dopo come dirigente della Confartigianato. Con la cosa curiosa che siccome lui è anche Confartigianato Agrigento, CGA di Agrigento, come segretario della CGA di Agrigento viene assunto da Francesco Giambrone, che gli dà uno stipendio di 3.900 euro al mese, più del doppio dei suoi predecessori. Ma come? Non stagista, interrompi il rapporto, lo prendi come dirigente, segretario della CGA di Agrigento a 3.900 euro al mese, nonostante le casse della Confartigianato di Agrigento fossero in quel momento sofferenti, tanto che non riuscivano a corrispondere le retribuzioni in maniera regolare ai dipendenti, pensate un po'. Ma la cosa che mi fa ancora più girare le scatole è che lui, essendo poi stato eletto consigliere, volete sapere quanti rimborsi erano irregolari di dell'altro? L'89%, 154 casi su 173 per Antonino Cicero. Ma restiamo su Alfonso Vassallo. Dicevo, siccome lui viene nominato consigliere, gran parte dello stipendio dal segretario generale della CGA di Agrigento viene pagato dal comune di Agrigento, perché c'è una legge regionale in Sicilia che dispone il rimborso della paga al datore di lavoro dei dipendenti eletti in consiglio solo per ogni giorno di permesso dovuto a impegni istituzionali. Siccome ne ha avuti parecchi, tant'è che ha lavorato per la Confartigianato solo 44 giorni nel 2012, mamma mia, Stakhanov. C'è Stakhanov e poi c'è Vassallo. 44 giorni di lavoro nel 2012, 46 nel 2013 e 22 nel 2014. In quei casi lo ha pagato la CGA, in tutti gli altri giorni l'ha pagato la Regione Sicilia, o meglio il Comune di Agrigento e quindi anche noi. Allora, andiamo al terzo posto, devo dare il traffico però, e poi andiamo al secondo posto e uniamo, come spiegavo, Napoli a Bolzano, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, andiamo al terzo posto, perché secondo il primo sono un testa a testa. Il terzo posto si chiama Passante Ferroviario. Oggi c'è Monte Sicilia, ma ripeto, come sempre, sono coincidenze. Passante Ferroviario di Palermo. Oh, qui la cifra è altissima, ma non è una cifra tutta buttata via. Mi fa ancora più incavolare il fatto che manchi il cosiddetto ultimo miglio. Allora, l'opera vale 1 miliardo di euro. Ed è un'opera importante, il passante ferroviario di Palermo con i suoi 37 km dovrebbe rivoluzionare la mobilità collegando la città con l'Interland. Praticamente parte da Brancaccio e arriva a Carini. I lavori sono all'80%, ma adesso c'è tutto fermato perché l'impresa di costruzioni SIS ha iniziato un braccio di ferro che in realtà durava da un po', ma è andato ancora più virulento con Rete Ferroviaria Italiana, perché la SIS ha comunicato ai sindacati che se non troverà un accordo con le ferrovie sarà costretta a licenziare tutti gli operai. Ci sono i cantieri di Viale Francia e di Isola delle Femmine che stanno procedendo a marilento. L'opera, ripeto, è all'80% completata, mancano lavori per 110 milioni su 1 miliardo complessivi, porca miseria. A luglio scorso l'azienda, considerato che i lavori erano quasi tutti completati, ha licenziato 250 persone. Ma adesso, se dovesse licenziare il resto del personale che deve finire quest'ultimo tratto, sarebbe la più grande incompiuta della storia, forse di Palermo, non dico della Sicilia. Allora, il cantiere verrà chiuso perché l'azienda non è in condizione di andare avanti, hanno detto i responsabili dei sindacati. Sarebbe in gravi condizioni economiche per colpa di Rete Ferroviaria Italiana, che si rifiuta di rivedere il contratto che è vecchio 12 anni. Cioè, la SIS sostiene di non avere problemi di tenuta economica, ma solo legati alla gestione dell'opera. Negli anni però hanno accumulato più di 100 milioni di perdite sul cantiere, hanno chiesto a Rete Ferroviaria Italiana di ripianare il debito, rivedendo e aggiornando i vecchi accordi. Insomma, sembra abbastanza incomprensibile una cosa, però lo dico, che la SIS sia, o SIS come si chiama, si sia accorta solo adesso del disavanzo, cioè questi 100 milioni, a parte il fatto che vorrei capire come li hai accumulati, ma te ne accorgi solo quando siamo all'80% dei lavori ultimati? Ora è chiaro che devi chiudere il suo lavoro. L'opera si dovrebbe concludere entro il giugno del 2018. A dicembre era prevista la consegna della galleria di Via Belgio. Resta ancora da risolvere il nodo galleria, il tunnel sotterraneo tra Via Imere, Piazza Lolli è fermo per 56 metri di galleria. Nel frattempo all'altezza di Vicolo Bernava le ruspe hanno tirato su un misto di sabbia e fango danneggiando le abitazioni, 50 famiglie costrette a lasciare le proprie case. La soluzione individuata è quella di abbattere le palazzine più vicine allo scavo, ma per farlo manca via libera della regione, che da mesi deve dare via libera. Lo dà via libera alla regione, la finiamo quest'opera a sto punto? Leo Luca Orlando, il sindaco, chiede un tavolo di confronto in prefettura. La vicenda è estremamente grave per le ripercussioni che può avere sulla vita della città. Vogliamo parlare con RFI, Rete Ferrovie Italiane, con cui abbiamo avviato un tavolo di gestione. Insomma, tirate fuori una soluzione, anche perché se no i sospetti sono altri quando un'opera si blocca nell'ultimo miglio, nell'ultimo 20% dell'opera stessa. Andiamo al secondo posto, dove mettiamo la regione Campania. Adesso risaliamo un attimo la penisola parlando di vitalizi. Voi direte, beh, la regione Campania, i vitalizi no. Guardate che anche il primo posto riguarda i vitalizi, ma non riguarda la regione Campania. Allora, vediamo un po' cosa succede in regione Campania, perché l'ultima classifica è quella aggiornata a ottobre. Al primo posto nel gruppo dei 10 meglio retribuiti come consiglieri con i vitalizi, consiglieri regionali, c'è Gennaro Mucciolo, socialista, ex vicepresidente del Consiglio regionale, 4.897 euro netti al mese per aver fatto tre legislature in regione. Lo segue a ruota Luciano Schifone, 4.828 euro, napoletano, ex AN. Terzo Antonio Amato del PD, napoletano, che è staccato di appena un euro, sono testa a testa, 4.827. La cosa interessante è che la regione Campania ogni mese spende quasi 1 milione di euro lordi per pagare i vitalizi agli ex consiglieri, 1 milione di euro lordi. Ma la cosa ancora più interessante è che ci sono anche due ex democristiani, Alfredo Vito e Armando De Rosa, uno che ha avuto durante Tangentopoli una pena patteggiata. Vito, no? Lui piglia quasi 3.000 euro netti al mese. Patteggiò 2 anni con pena sospesa per reati contro la pubblica amministrazione. Ha restituito Alfredo Vito volontariamente al comune di Napoli 5 miliardi di vecchie lire. Forse qualcosa aveva rubato. Forse. L'altro si chiama Armando De Rosa, attualmente imputato per abusivismo edilizio. Cioè, vabbè, tutto normale, ma tutto normale, dai. E chi mettiamo al primo posto sui vitalizi? Mettiamo una provincia, mettiamo la provincia di Bolzano, alla buona faccia. Perché vedi, quando c'è da capire l'italiano, delle volte in Alto Adige, e lo chiamo Alto Adige, con buona pace della comunità di lingua tedesca, Alto Adige, ci sono delle difficoltà di comprensione, no? Però quando c'è da applicare lo Stato italiano nelle sue parti più schifose, vedi, i vitalizi sono improvvisamente italianen, tutti italianen. E allora diamogli il primo posto, vai. And the winner is... la provincia autonoma di Bolzano, perché prendete nota di questa data, il 26 ottobre si tiene la prima udienza a Bolzano, dopo che gli ex consiglieri della provincia di Bolzano hanno vinto il round in Cassazione con i giudici della Cassazione, che hanno stabilito la competenza del giudice ordinario, e quindi c'è un ricorso di nuovo in tribunale. Che cosa è successo? Ci sono 62 ricorrenti su che cosa? Su una decisione presa nel 2014 dalla stessa provincia per mettere una pezza allo schifo fatto nel 2012, legge numero 6, che regalava una quantità spropositata di soldi agli ex consiglieri, tra cui il caso più famoso, Eva Klotz, la passionaria, la figlia del bombarolo, la Valpassiria, una che non vorrebbe stare in Italia mai se non per prendere sti cavolo di vitalizi. La raccontiamo dopo il GR24, perché la decisione del 2014 in realtà obbligava questi consiglieri a ritornare una parte di questi vitalizi mostruosi, in tutto 29 milioni e mezzo da ridare, Pensate che adesso tutto si riapre, ma mancano ancora 12.600.000 euro mai restituiti da chi aveva comunque l'obbligo di restituirli, e spiccano nomi, diciamo, anche di matrice altoatesina, diciamo di lingua tedesca, Walter Baumgartner, 700.000 euro, devi ritornare. Michael Leimer, 1.165.000 euro. Mauro Minniti, 1.322.000 euro, da ridare, non quelli che ha preso, molto di più quelli che ha preso. Ma ne parliamo dopo il GR24. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Di nuovo in diretta, 18:07 minuti. Avevamo già anticipato il vincitore della classifica di questa settimana, la provincia autonoma di Bolzano. Mi sta scrivendo un ascoltatore: lei è un odioso razzista di tedeschi, Deutschland über alles, frei von der italienisch, Südtirol frei Südtirol. Guardi che la sua opinione politica è interessante, a parte che tra Deutschland, Tirolo, se non ricordo male, è più l'Austria il riferimento, ma io non contesto l'opinione che uno può avere politicamente, però non è che frei von der italienisch, però ai vitalizi, perché guardate, la vicenda è molto semplice. La legge numero 6 del 2012, approvata dal Consiglio regionale, quindi la provincia di Bolzano, conteneva sì la riduzione delle indennità dei consiglieri provinciali e regionali, ma una modifica del sistema dei vitalizi. Tant'è che la modifica era talmente vantaggiosa, praticamente si dava una specie di, puntava a ridurre le pesantissime uscite annuali dei consigli regionali per i pagamenti dei vitalizi, che in alcuni casi arrivavano a 5.000, in molti casi 5-6.000 euro netti al mese. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale cosa fa? Riduce i vitalizi al massimo a 2.800 euro netti al mese, ma liquida gli interessati con una cifra che dovrebbe corrispondere all'attualizzazione di quanto spetterebbe in base all'aspettativa di vita e altre variabili, con però tassi di interesse bassissimi e un'aspettativa di vita che, se non ricordo male, arrivava a 92 anni. Ora, io capisco che si viveva bene in Alto Adige, l'aria è pulita, così, ma 92 anni per tutti? Ma che è? Una condanna? Ora, questo che cosa portava? I vitalizi venivano tagliati, ma la compensazione arrivava a toccare 54 milioni di euro, di cui 22 milioni anticipati in contanti e 31 in quote nel fondo Family. Ne risultavano beneficiari tutti gli ex consiglieri già titolari di vitalizio, più i consiglieri in carica e gli ex che avevano maturato il diritto a riscuotere il vitalizio una volta raggiunti i limiti di età. Scoppia un casotto. Tant'è che, per esempio, citavo Eva Klotz, la passionaria, l'indipendentista, quella che vuole uscire da tutti i costi dall'Italia, no? Via da Roma, come si diceva in tedesco, via da Roma, non me lo ricordo più. Comunque, Eva Klotz, Südtiroler Freiheit, le ha liquidato per intero la regione 946.000 euro di vitalizio, ma in realtà lei avrebbe dovuto averne 1.145.000. Cosa succede? Nel 2014, a febbraio, si modifica la legge e si dice: attenzione, bisogna ridare alcuni soldi, no? Perché le cifre erano astronomiche. Ma guardate che 1.322.000 euro a Mauro Della Dio, 1.180.000 a Werner Frick, all'ex presidente Luis Drunwalder 920.000 euro, a Pino Morandini 1.112.000 euro, a Franz Pal 1.000.000 di euro, a Oscar Peterlini 1.000.000. Allora, cifre astronomiche. Poi ci sono anche consiglieri ed ex futuri totali di vitalizio: 1.425.000 euro a Sabina Kasslater Mür, 1.322.000 euro a Mauro Minniti, 1.317.000 euro ad Hans-Peter Münter, 1.165.000 euro a Michael Leimer. Allora, e devono ritornare una parte di quei soldi. Ecco perché è importante il 26 ottobre, perché poi loro hanno fatto ricorso e adesso di nuovo tutto tornato in tribunale. Nel frattempo abbiamo anche la classifica di chi sti soldi non li aveva ancora ridati, perché dovendo ritornare 29 milioni e 400 mila euro, mancavano all'appello ancora 13 milioni. Nello specifico, Mauro Della Dio doveva ancora dare 462.000 euro, Oscar Peterlin doveva ancora ridare 338.000, Giorgio Holtzman 345.000, Franz Pahl doveva ancora ridare 323.000, Rosa Zelger Thaler doveva ancora ridare 757.000, Walter Baumgartner 700.000 euro doveva ancora essere ridati, Michi Leimer 1.165.000 euro da ridare, Hans-Peter Münter 1.327.000, questo manco aveva iniziato lui, e Julia Unterberger, poveretta, solo 172.000 euro. Vedete che poi l'Italia non è un brutto paese, lo dico, ripensate a questa idea indipendentista, ma guardate come si sta bene in Italia. Un bel applauso anche a tutti i consiglieri italiani o altoatesini di lingua italiana, di lingua tedesca, tanto sempre quella è, gira, rigira, come si dice, quella cosa lì è sempre quella. Trovo da ridere, Los von Rom, Los von Rom, però non dal vitalizio, Los von Vitalizium, non solo Los von Rom, è anche dal vitalizio devi andare, ma poi fa schifo sti soldi degli italiani, ma non prendeteli. E vabbè, dottor Antonio Rindone, numero uno di M Collective, buonasera. Buonasera, buonasera Barisoni. Allora, cosa fa M Collective, dove ha sede e chi l'ha fondata? Allora, M Collective ha sede, diciamo, a Milano, noi siamo a Milano, l'ho fondata io insieme a un altro gruppo, diciamo, di giovani imprenditori, in particolare due persone che sono partite insieme a me, si chiamano Cristo Milì e Anna Casiraghi, e insieme a loro poi abbiamo unito altri piccoli, diciamo, investitori, amici e famiglie che ci hanno aiutato nello start-up del progetto. L'azienda si occupa sostanzialmente dello sviluppo di una piattaforma per piccole aziende stilisti emergenti nel settore del fashion, della moda. Sostanzialmente quello che stiamo cercando di fare è creare un insieme, diciamo, di aziende, un collettivo, perché si chiama un collective proprio per questo, di aziende che hanno prevalentemente una produzione o comunque una creazione del prodotto qui in Italia, ma che sono ancora piccoline per avere una forza distributiva, e quindi noi stiamo cercando di diventare il canale distributivo della piccola azienda manifatturiera italiana. Vorreste aggirare il problema che hanno spesso le piccole imprese sulla parte commerciale distributiva, non hanno la forza economica. Perfetto, il tema è proprio questo, noi stiamo cercando di dare forza a quella che è la difficoltà della piccola azienda, che spesso ha una grande capacità di creazione, di produzione, ma poi hanno difficoltà invece distributive, a volte anche legate a un tema culturale, ecco, non solo di investimento. E quindi stiamo cercando di creare proprio il canale distributivo che permetta a queste aziende di... Ecco, ma voi avete aperto anche una distribuzione fisica o solo online? No, assolutamente, anzi all'inverso, siamo partiti proprio dal fisico. Noi abbiamo... per prima cosa, circa un anno e quattro mesi fa, ha aperto un flagship store, come si dice tecnicamente, quindi sarebbe una sorta di negozio molto grande, con un impatto visivo abbastanza importante, su Milano, e quindi siamo partiti con questo negozio fisico, in cui ad oggi è possibile vedere circa 250 di queste aziende, perché sono abbastanza numerose, diciamo così, e poi siamo andati nell'online successivamente, quindi la piattaforma in realtà online è molto più recente, perché siamo live da circa... Sì, tra l'altro mi ricordo che anche Amazon ha deciso poi di aprire un negozio fisico, cioè non solo online, a Seattle, perché... Più che uno, ne sta aprendo più di uno. Cioè, il progetto di Amazon punta ad aprirne circa 300 in... Senta, chi vi ha dato i soldi, quanto fatturate e quanti siete? Allora, noi siamo partiti con un investimento iniziale di circa 800.000 euro, e i soldi sono arrivati, come dicevo prima, dalla fiducia che ci hanno riposto alcuni amici, oltre ai nostri soldi personali, perché anche noi stessi come fondatore... Cioè, avete fatto fundraising con amici e parenti? Perfetto, quello che si dice tecnicamente family and friends, abbiamo fatto proprio questo e siamo partiti. Poi devo dire che abbiamo avuto anche un supporto grazie ad una banca che ci ha finanziato. Chi? In realtà sono stati due, l'Intesa San Paolo è la principale lender, quindi la somma più importante è arrivata da Intesa San Paolo. Noi fatturiamo quest'anno, dovremmo arrivare a circa 2 milioni, il fatturato previsto è 2016, ed è il secondo anno di attività, quindi l'anno scorso che abbiamo praticamente aperto a maggio, per cui su 7 mesi abbiamo chiuso con circa 800.000 euro di fatturato. E la stima per quest'anno? 2 milioni, come dicevo, bene, siamo all'incirca sui 2 milioni e siamo in linea con quello che pensiamo di fare, ecco, questo è un po'... Siete raddoppiati, mi diceva, da 9 a 18? Sì, indicativamente siamo partiti in 7 e mezzo, direi così. Beh, 7 e mezzo, chi era a mezzo? Sì, poi siamo arrivati, sì, quasi, oggi siamo ci avviciniamo ai 20 quasi, quindi c'è stata una crescita importante che soprattutto grazie alla spinta che è arrivata da un fatturato che oggi ci permette di crescere. Mi scusi, ecco. Forse me la son persa, la sua età? Sì. Io ho 36 anni, compiuti. Beh, adesso, anche 36. Se non avessi compiuti, non siamo così a spaccare il pelo nell'uovo. In bocca al lupo a lei, ai suoi soci, ai suoi quasi 20 dipendenti, nella speranza che diventino ancora di più. Grazie e che aumenti mille, il fatturato. Grazie ancora mille. E complimenti, come sempre noi portiamo una startup per... come nostro, diciamo, antidepressivo dopo la classifica. Grazie ancora a Antonio Rindone, numero 1 di M Collective. Allora, mi sta scrivendo ancora sulla provincia di Bolzano, dunque molti dicono distinguete tra provincia autonoma di Bolzano e di Trento, beh, lo sanno anche i sassi, comunque stavamo parlando della provincia autonoma di Bolzano. Cosa mi ha scritto questo? Come se fosse normale andare nelle case altrui a gridare certe cose e poi diversi sono gli altri, io non sono mai andato a offendere la gente così per vezzo. Frei von der Italienisch Südtirol Frei, ascolti, tutto quello che vuole, qui non è un problema di Frei, qui è un problema di Skei. Che poi in tedesco si dice Geld, no? Soldi, Skei, no Frei, Skei from Italian, von der Italien, non Frei von der Italien, Trafficken. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. I wanna be free. Beh, ragazzi, basta con quella provincia autonoma di Bolzano, il traffico l'abbiamo sentito, ma no, è che adesso va ben tutto, però parliamo di Skei, lo ripeto, non di Frei from Italian, ma Skei from Italian, non so come cavolo si dicano, ma è così, ok? Allora, e restituite i soldi, a maggior ragione se vi fa schifo l'Italia, vi faranno schifo anche i soldi degli italiani, ma che discorsi sono? Dovrebbero restituire tutti, anche l'ex consigliere Missino, a maggior ragione, no? Però, dai... ragazzi, unire oggi Bolzano a Napoli, non c'è più religione. Allora, la sostanza della manovra non cambia, dice il premier Matteo Renzi, non chiediamo flessibilità ma integrazione sulla parte terremoto e immigrazione, il nostro deficit è più basso dell'ultimo decennio. Le infrazioni vanno date a chi non rispetta gli impegni con i migranti, la Germania non rispetta i patti perché ha un surplus commerciale più alto del previsto e poi sulla Russia non ha senso parlare di sanzioni alla Russia. Sento un bisogno impellente che non è quello, diciamo, di chi sta seduto su questa sedia, ma sento il bisogno impellente di fare il punto tra la visita a Washington all'interno di una campagna che si sta un po' chiarendo negli Stati Uniti, lo scontro con Bruxelles e anche in parte coinvolgendo Germania e altri paesi, e anche sulla legge di stabilità, perché a noi alcune coperture non ci convincono proprio, poi arriveranno tutte le spiegazioni dal Ministero, ma insomma, spending review e le stime per quanto una tantum su quello che entrerà nelle casse come rottamazione di Equitalia e volontaria disclosure, l'abbiamo detto, sono stime un po' aleatorie, e allora ho bisogno di un uccellaccio, stavo per dire una cosa che poteva essere equivocata, ma per gli equivoci aspettate ancora un quarto d'ora. Le borse, chi mi chiede, le ho già dette, abbiamo già commentato Monte dei Paschi, ve lo ridò se non l'avete perso, più 13,30, un rialzo di quasi di oltre il 50% dopo il CDA di lunedì. Professor Giulio Sapelli, l'uccellaccio Buonasera. Ma vuole parlare in tedesco? Ho appena attaccato la provincia di Bolzano. Ho sentito e tutti... dall'alto, sentivo. Come fry from Italy, qua è sky from Italy. Come si dice da in tedesco, professore? Come si dice? Da, sky dall'Italia. Sky from Italy. Comunque, senta, stiamo combattendo una battaglia giusta, o meglio, la sta facendo il governo a Bruxelles. E con due tavoli, perché va a cena con Obama, ma poi difende anche la Russia dalla tentazione tedesca di mettere nuove sanzioni, oppure diciamo siamo così un po' velleitari, un po' per distogliere lo sguardo da altro, ma è una battaglia che andrebbe condotta in maniera più diplomatica e sotto traccia? No, mi sembra che si fa quello che si può, soprattutto con un presidente americano che di diplomazia non sa più nulla, perché devo dire mi ha colpito che il presidente americano si metta così a rischio la sua reputation. È vero che tra pochi giorni non ci sarà più, ma fare una dichiarazione così di endorsement per il sì è pericolosissimo, perché metti caso che vincesse il no, viene meno anche la reputation. Doveva limitarsi a dire auguri agli italiani, sicuramente starete bene sia se vince il no sia che vincersi. Quindi questo vuol dire che ormai come capacità diplomatica siamo scesi molto in basso. Da quanto riguarda... Ma la legge di stabilità lei l'ha studiata? Sì, ma certamente. Però volevo dire solo una cosa: non c'è nessuna contraddizione col fatto che Renzi vada a cena da Obama, di cui ci rallegriamo tutti, è una cosa molto importante, e che poi apra così alla Russia, perché determinate potenze, noi siamo una media potenza, sono usate come mediatori. Ecco, se Obama fa la faccia dura ai russi, che tra parentesi adesso stanno scendendo giù per l'Atlantico e stanno per entrare nel Mediterraneo con la portaerei Kuznov. Si hanno fatto incavolare anche i britannici, perché sono passati sulla manica. Sa, è la prima volta che uno spostamento navale così grande si effettua dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. È un evento storico straordinario che sarà ricordato nei libri di storia. Quindi, insomma, gli inglesi hanno fatto bene, d'altra parte non potevano fare il giro dalla Scozia. Ma comunque, quindi è giusto che l'Italia faccia da ponte, che non si arrivi ad uno scontro diretto. Quindi l'Italia, come sempre, ha fatto da mediatore, l'abbiamo fatto anche nei tempi più terribili della guerra fredda, c'era la guerra del Vietnam e la pira andava da noi. Quindi lei dice bene questa parte, però non mi eluda la domanda, Sapelli. Prego, qual è la legge di stabilità? Legge... Fa benissimo Renzi a fare quello che fa. Renzi fa molto bene, perché voglio dire, ormai la triangolazione a geometria simmetrica a confini mobili è quella tra l'Italia, la Francia e la Germania, è questa cosa qui che tiene insieme l'Europa. Se i tedeschi pensano di poter fare a meno di un angolo, di un lato di questo triangolo, l'Europa finisce. Quindi già abbiamo rischiato molto con la questione dei migranti. Trovo che sia gravissimo che i paesi come la Germania, come la Francia, eccetera, abbiano aderito alla sospensione di Schengen, no? Per quanto riguarda i migranti, quindi già un pezzo d'Europa se n'è andata. Se poi non passiamo dal pilota automatico, che è la politica economica fatta per qualsiasi paese, qualsiasi nazione, qualsiasi primo ministro ci sia, a più politiche economiche senza pilota automatico, quindi mediando volta a volta, tenendo conto delle necessità, e beh, diciamo, l'Europa si disgrega, non mi pare che ci sia molta possibilità. Perché... Quindi, se ho ben capito, Sapelli, lei dice Renzi può anche avere questo atteggiamento perché sa che a questo punto... Dopo la Brexit, se non gli danno la ragione, l'Europa va in pezzi. La cosa che mi preoccupa è che soprattutto la Commissione, qui non è il problema del Consiglio, la Commissione, che è fatta di tecnocrati incompetenti come era Mario Monti, insomma, l'abbiamo visto all'opera. Ogni volta mi attacca Monti, va bene. Ma va bene. No, non attacco nessuno, ricordo non la storia. Non si figura, non ho nessun rapporto con Monti. È un tipo ideale liberiano a Mario Monti, non è uno... Non c'ho nulla con lui, ho una massima stima, ma proprio mi serve dal punto di vista scientifico. Quindi questi tecnocrati non competenti, che non si rendono conto che ci sono i popoli, ci sono i paesi, c'è la politica, e chiaramente l'Europa va a rotoli, no? Quindi bisogna, e Renzi fa molto bene, riqualificare il Consiglio europeo, bisogna che la sede principale diventi il Consiglio europeo, e poi speriamo che finalmente diventi il Parlamento europeo. E quindi al posto di avere delle direttive avremo delle leggi. Perché adesso l'Europa non ha un Parlamento. Lei sta volando, che è tipico suo, essendo un uccellaccio che vola alto, sta volando già più avanti. A me interessava capire se questo scontro, schermaglia, questo scontro vince Renzi di sicuro, perché se non gli danno questa cosa qua sul terremoto, è un terremoto europeo. Non possono, dopo la Brexit, dirgli che la roba di mi scusi, Sapelli, per concludere, però alcune di queste entrate non sono un po' troppo aleatorie, come ballerine sulla parte fiscale? Ma se ha senso tutto quello che abbiamo detto... Lei si preoccupa ancora della copertura? No. Il problema vero adesso... Sono un po' vecchio, adesso, dice lei, vero? Sì, è stropicciarsene delle coperture. Se serve per mantenere un po' di crescita, ma facciamo più debito, no? Mm-hmm. Abbiamo visto che il debito non fa fatto male alla crescita. Dove? In tutto il mondo, scusi. Mm-hmm. Il Giappone c'è il 200%, 50% di debito, 3% di disoccupazione. Cosa scambierebbe lei? L'11% di disoccupazione che abbiamo noi o il 3%? Io preferirei avere il 3% e avere più debito. Chiaro, quindi adesso basta con queste coperture, perché sono una scusa per non fare nulla. No, sempre la copertura. Ma scusi, a me non mi importa nulla della copertura, anche se sfondo di 1 miliardo, ma cosa crede che cambi? Vabbè, guardi, lei parla, sfonda una porta aperta in questo. Tra l'altro voglio fare un endorsement a Giulio Sapelli, che ha ripubblicato il suo libro Cleptocrazia. Leggetelo, perché è un libro pre-Tangentopoli, ma del tutto attuale, purtroppo, visto che oggi è la giornata della classifica. Sapelli, voli lontano, basta. Poi tornerà a parlarci anche tanto da qua all'approvazione. Allora avremo ospite per commentare l'esito delle elezioni americane. Grazie al docente di storia economica della Statale di Milano Giulio Sapelli, grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Da Sebastiano Berigioni gli auguro di una buona serata, ci risentiamo lunedì e intanto un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24, la passione si sente.